Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi. Oggi è il 20 di giugno. Italia in controluce, come sapete, è il programma di quotidiano di Radio 24 e l'approfondimento del giornale radio. Oggi parliamo di mafie e vi chiediamo se secondo voi la lotta alle mafie deve essere una priorità di governo. Devo dire che leggendo un po' il programma di questo governo, questa priorità viene abbastanza fuori, ma non in modo forte, non in modo diciamo come si dovrebbe. E noi partiamo questa riflessione da Lamezia Terme, perché a Lamezia Terme è in corso un festival molto particolare. È un festival che si chiama Trame ed è il primo festival culturale dedicato ai libri sulle mafie, cioè agli scrittori che da molti anni, diciamo soprattutto dopo il grande successo che ha avuto Roberto Saviano col suo Gomorra, ma anche prima per molti altri colleghi, una espansione, un'enorme espansione di libri che parlano di mafia, di storie di mafia. Dal cuore della Calabria arriva dunque la voglia di denuncia, la voglia di un risveglio di coscienze contro le mafie. Ci sono workshop, ci sono incontri con gli autori coinvolti in prima persona nella lotta alle organizzazioni criminali nel nostro paese, ma questa forte spinta della società civile, secondo voi, è difesa poi dalla politica? E la lotta alle mafie deve essere una priorità di questo governo? E per fare che cosa? Quali possono essere le idee? 349-238-6666 sono i vostri sms. Allora noi ci colleghiamo proprio con Lamezia, dove al Festival Trame c'è per noi Raffaella Calandra. Buongiorno Daniele, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, io partirei dalla tua domanda, dalla riflessione che tu hai girato ai nostri ascoltatori, girando a voi quello che qui a Lamezia io raccolgo. E innanzitutto la prima richiesta che forte arriva da parte dei tanti magistrati che qui convergono al Festival Trame, ma anche da tutti un po' gli addetti ai lavori del mondo della lotta alle mafie e dalla società civile, diciamo, che affolla gli incontri fino a notte fuori, è che innanzitutto questi due problemi, cioè quello della crisi economica che ormai da anni è, diciamo, il fronte politico più importante, ovviamente e giustamente, e questi due problemi della crisi economica e delle infiltrazioni mafiose non sono affatto due problemi distinti, ma sono l'una strettamente collegato all'altra, e questo è soprattutto vero in una regione come la Calabria, che è la regione più povera d'Italia, dove il PIL è calato del 10% secondo le ultime rilevazione di Banca Italia, mentre nel resto del paese è calato del 7%. Questo fa sì che anche l'ultima iniziativa del Presidente del Consiglio, Enrico Letta, di istituire una tax force che avanzi delle proposte concrete nella lotta anche patrimoniale alla criminalità, venga letta con grande favore, insieme anche all'istituzione recentissima del Ministro dell'Ambiente Orlando di un gruppo di lavoro sulle ecomafie. Bisogna anche dire che il Premier era stato, come ricordavi, anche un po' accusato di non aver inserito le questioni della criminalità organizzata nei suoi primi discorsi ufficiali, però ora in questa squadra ha inserito anche un funzionario di Banca Italia, Magda Bianco, e questo è un aspetto estremamente importante, perché è proprio lì nei flussi finanziari che si concentra la lotta alle mafie, che spesso si infrange in una collaborazione non sempre così adeguata, diciamo, da parte degli operatori finanziari, da cui comunque continuano ad arrivare ancora troppe poche denunce su operazioni di spostamenti di soldi che siano sospetti. Ecco, oppure allora sono... prima di andare avanti col tuo racconto, di sentire un contributo, vi leggo alcuni messaggi, sono arrivati molti. Noi vi abbiamo chiesto se la lotta alle mafie deve essere una priorità di governo, e devo dire, e questo poi lo chiedo anche a te, Raffaella, sul fatto che tutte le volte, mi ricordo che la prima volta che entrai in Parlamento mi dissero una cosa, che mi ho fatto una sorta di teoria, cioè che quando non si sapeva come fare a realizzare una risposta da parte della politica, si creava una commissione. E ce ne sono, allora c'è la commissione, ci dovrebbe essere la commissione antimafia, la commissione antimafia dovrebbe essere quella, perché tutte le altre commissioni? Ma vabbè, lo Stato nei confronti della mafia non farà mai niente, dice un nostro ascoltatore calabrese. Te lo dice una persona che ha visto coi suoi occhi perché vanno via i politici a braccetto coi mafiosi. Come fanno a combattere le mafie se poi i voti li prendono lì? Non se ne può più di parole a vuoto sulla mafia, le priorità sono altre, dice un altro ascoltatore. Combattere le mafie è un bel risparmio per tutti noi, dice Viola da Milano. E un altro ascoltatore un po' polemico dice: ma se il governo fosse espressione della mafia? Vabbè, questo mi pare veramente follia. In assoluto deve essere la priorità, dice Fabio, ma se il Parlamento è pieno di persone colluse con la mafia, poi come si può combattere la criminalità organizzata, dice un altro ascoltatore. Certo, la lotta alle mafie deve essere una priorità di ogni governo, con tutti i mezzi, se si vuole si può fare, dice Serena da Savona. E poi a me piace questa, perché mafia, dice, ma la mafia non esiste, era una delle parole che abbiamo sentito non solo a Corleone ma anche a Milano. Allora, Raffaella. Daniele, allora, a proposito della commissione di cui mi chiedevi, questa voluta dal Premier dovrebbe avere una funzione specifica diversa da quella della commissione parlamentare antimafia, perché dovrebbe fare avanzare delle proposte concrete di tipo normativo. Il dubbio rispetto alla creazione di questi nuovi enti sorge ogni volta, ad onor del vero. Le speranze però ci sono, perché soprattutto si vuole andare a guardare quell'aspetto finanziario che è sempre più importante, come stavo ricordando, e che fa sì che la questione delle mafie non sia slegata, come già dicevo, da quella che riguarda la quotidianità di ciascuno di noi, cioè la crisi economica. E in queste realtà così fortemente provate dalla difficoltà economica lo si sente in modo molto forte, perché le aziende muoiono, perché gli imprenditori non riescono ad investire, perché la gente è costretta ad emigrare. Quindi non sono due problemi slegati, non lo sono così tanto che una delle ultime inchieste di queste ore qui in Calabria ha provato ad esempio che ancora una volta i clan imponevano anche il caffè in alcuni bar, e i soldi di quel pizzo, di quelle estorsioni, poi venivano riciclati negli Stati Uniti. E sulla capacità di alterare le regole del mercato si è concentrato il procuratore di Reggio Calabria, Federico Cassiero De Rao, che ho incontrato. Sentiamolo. Ciascun clan è in grado di controllare il territorio, controllare i traffici, muoversi in un'economia legale in modo da infiltrarsi con propri soggetti economici. Io credo che siano tutte parimenti pericolose nel momento in cui continuano a muoversi in questa economia in modo da modificare quello che è la stessa regola della concorrenza, o in qualche modo infiltrandosi nei canali attraverso i quali avviene il riciclaggio, utilizzando in particolare il canale bancario, laddove spesso è emerso che soprattutto attraverso la collusione di soggetti che di volta in volta nell'ambito della struttura hanno operato, sono riuscite alcune operazioni. Io ringrazio gli ascoltatori, ringrazio soprattutto Raffaella Calanda per questo racconto in diretta dal Festival Trame di Lamezia. Tantissimi sono i messaggi da chi dice da 60 anni che si parla di infiltrazioni mafiose nell'economia italiana, ma nulla è stato fatto. C'è davvero la volontà politica di fare una lotta seria, dice Roberto. La mafia non si deve più combattere, si devono porre delle alternative sociali alla mafia, ci scrive Gaetano da Palermo. Un altro ascoltatore, Sergio Sanguinetti da Pietra Ligure, ci ricorda che l'antimafia si è insediata nel 1861, risultato un buco nell'acqua, un business che rende occupazione e reddito per un evento ineluttabile, metafisico. Così moltissimi altri ascoltatori, grazie ancora, domani come sempre alla stessa ora con Italia in controluce.